Michele da Milano, pronto Michele? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene. Io sì, me la cavo. Senti, tu, ma sei italiano, Michele? Tu? No, sono moldavo, Matteo. Ma Michele è un nome moldavo? Diciamo di no. In moldavo sarebbe come era prima Mikhail Gorbaciov. Era Mikhail. Mikhail. Però qua mi chiamano tutti Micheli, per cui sono così. Che lavoro fai, Michele, qui a Milano? Faccio l'autista, Matteo. E quanti anni c'hai? C'ho 29 anni. Da quant'è che sei qua? E Dal 2001. come ti trovi? Bene. Bene. Senti, dimmi invece, tu ti sei innamorato stamattina di qualcuno? No, proprio un quarto d'ora fa. Oh, Guarda, dove? a Varese. Ma tu eri a Varese per lavoro? Sì, ero a Varese per lavoro, dovevo effettuare un scarico e niente. Passavo per una stradina lì, ho visto una ragazza. Ha girato la testa, io quando l'ho vista ovviamente ho frenato, andavo molto più piano. Lei Cioè, mi ha ha inchiodato col guardato, furgone? no, sì, con un camion più grosso. Ah, c'hai un camion proprio. Sì, c'ho un telonato. E Bello, il telonato, niente. guarda, ho una passione per il telonato, per l'auto. Come si chiama? Il bilico, quel che è quello Il più bilico, io lungo? c'ho il bilico. Tu c'hai un bilico telonato? Sì. Ma quindi è gigante. Sì, è 14 metri Cioè, quindi quadri. questa che vede un camion che inchioda di 14 metri, che inchioda per lei, tu le Ha cartucce da sparare? girato, niente, ha girato la testa, mi ha sorriso. Secondo me comunque questi innamoramenti giornalieri sono un recupero di energia, Cioè? perché una volta che ti passano quell'istante lì, vai su di morale e di forza, nel senso che tutta l'energia che lo perdi durante la giornata, secondo me è un recupero. È un po' come una lattina di Coca-Cola alla Sì, sera che ti dà. più o meno, sì, Matteo.